le tue dita, tesse vano parole, così senza fatica e senza far rumore, lo spazio di una riga, e avevi preso il volo, un punto esclamativo. E rimanevo solo. Così alla fine ti ho seguita per tutta la punteggiatura. Assurdo non averti mai capita e non riuscirci neanche ora. Come hai fatto amore per tutta questa lunga vita, con tutto quel dolore, senza far rumore, senza far rumore. Senza far rumore.